Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore. Roma in un raptus tenta una strage nella caserma dei vigili del fuoco del Tuscolano, 10 feriti. Napolitano a Reggio Calabria, vertice in prefettura sulla lotta alla criminalità. Allarme BCE, la disoccupazione salirà, crescita 2010 moderata e discontinua. Ad Haiti crolli e nuovi salvataggi, l'ONU forse non sapremo mai quante persone sono morte. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione in primo piano dunque a Roma, dove nella caserma dei pompieri del Tuscolano in un raptus un dipendente ha ferito 10 persone. Noi ci colleghiamo in diretta subito con la capitale, con Chiara Di Michele. Buona giornata Chiara, dove ti trovi? Buongiorno, mi trovo proprio davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco qui a Capannelle. Col passare delle ore la situazione comincia a definirsi meglio, ma rimangono ancora punti da chiarire. Al momento sappiamo che l'aggressore è un ingegnere dei Vigili del Fuoco ed ha 41 anni. Secondo quanto riferiscono fonti dei Vigili del Fuoco, in un momento di follia questa mattina l'uomo ha accoltellato 4 colleghi con un coltellino tascabile all'interno della struttura nei pressi del Sacrario. Poi, dopo l'aggressione, ha tentato di allontanarsi in auto ed ha investito altre 4 persone nel parcheggio della struttura. L'uomo stava cercando di fuggire. Il bilancio, quindi, secondo quanto ha riferito il responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, Gennaro Tornatore, è di 8 feriti, sale a 10 secondo il 118, quindi ancora dei punti di incertezza rimangono anche sulle motivazioni di questo gesto. Secondo dei feriti, secondo i vigili del fuoco, 2 sarebbero in condizioni gravi. E per quanto riguarda le motivazioni del gesto, appunto, secondo il responsabile della comunicazione, Tornatore, si tratta di un gesto di follia. Sentiamolo. Non ci risultano che ci siano state discussioni all'inizio di questo raptus, è semplicemente per quello che abbiamo potuto raccogliere fino a questo momento parlando con i colleghi che lo conoscono, è imputabile esclusivamente un gesto di pura follia. Non credo che ci sono problemi economici, è un collega che sta nel Corpo Nazionale da diversi anni, quindi non ci sono problemi economici. Si occupava di formazione nell'ambito delle scuole centrali antincendio. Per il momento qui dalla sede dei Vigili del Fuoco di Capannelle è tutto, e se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Di Michele, non ci sono domande, eventualmente dovessero esserci degli aggiornamenti torneremo a collegarci con te. Adesso però ci spostiamo a Reggio Calabria, dove è una giornata importante, c'è in visita il capo dello Stato. Napolitano ha incontrato questa mattina il presidente della regione Loiero ed in prefettura ha partecipato ad un vertice sulla legalità. Noi ci colleghiamo in diretta con la Calabria con Filippo Veltri. Filippo. Buongiorno a voi. Il presidente napoletano in questo momento è al liceo artistico statale di Reggio, Mattia Preti, dove sta incontrando gli studenti di Reggio Calabria. Assieme a lui c'è il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, rappresentante delle istituzioni locali ai vari livelli. Il napoletano fra pochi minuti parlerà. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica ha deliberatamente scelto la città di Reggio Calabria per intervenire in occasione della giornata della legalità dopo i fatti di Rosarno, quindi è prevedibile che in questo suo intervento farà esplicito riferimento a quanto accaduto nella città calabrese nelle scorse settimane. Come dicevate voi da studio, nelle prime ore della giornata invece Napolitano ha incontrato una serie di personalità all'interno della prefettura di Reggio Calabria, una sorta di vertice, perché ha incontrato il procuratore generale, il procuratore della Repubblica, poi ha incontrato anche i prefetti, i comandanti dei carabinieri, della Guardia di Finanza, quindi un vero e proprio summit sulla 'ndrangheta che ieri Napolitano aveva definito come la più insidiosa organizzazione criminale che opera nel nostro paese. Grazie a Filippo Veltri per questi aggiornamenti e noi parliamo di giustizia. Dopo l'approvazione ieri in Senato del contestato testo sul processo breve, oggi relazione alla Camera del ministro Alfano. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, il giorno dopo l'approvazione del processo breve al Senato, il guardasigilli Angelino Alfano torna sulla riforma della giustizia nella relazione annuale in corso qui nell'aula della Camera. Non faremo leggi punitive o che rendano negletta la giustizia, crediamo nell'autonomia e nell'indipendenza dei magistrati che sono soggetti solo alla legge, ma quella, dice Alfano, la fa il Parlamento. Per il Ministro la lentezza dei processi è il vero male del nostro Paese, ma sentiamo Alfano. Lo scorso anno ero partito dalla individuazione del più insidioso dei nemici della giustizia, e cioè l'insopportabile lentezza nell'affermazione giudiziaria delle ragioni e dei torti, della innocenza e della colpevolezza, che ha fatto del nostro Paese un luogo in cui la durata eccessiva dei processi disincentiva financo gli investimenti stranieri. Tutto questo accade malgrado diverse migliaia di magistrati, avvocati e personale giudiziario fanno quanto è nelle loro possibilità per adempiere al proprio dovere. Oggi sono qui per dire che la lentezza è un nemico insidioso, ma è un nemico che si può vincere e il governo ha la strategia per riuscirvi. In 3 anni, auspica il ministro, smaltiremo i processi civili grazie ad un piano straordinario per combattere l'arretrato, ma dall'opposizione il segretario Pierluigi Bersani replica: dopo l'approvazione del processo breve la maggioranza si carica di una responsabilità grossa perché adesso è molto più difficile fare le riforme. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta. Si è riunito questa mattina il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che sta valutando se inserire nella pratica già aperta sugli attacchi di Silvio Berlusconi contro la magistratura anche le critiche fatte ieri dal Premier alle toghe. Il Premier ha parlato dei pubblici ministeri di Milano come di un plotone di esecuzione. La magistratura in ogni caso si schiera compatta contro il processo breve, ma quali saranno le conseguenze di questo provvedimento per i cittadini? Alessandra Schepisi lo ha chiesto ad Ezia Maccora, presidente della 6ª commissione del CSM, la commissione che si occupa proprio di dare i pareri sui disegni di legge. Rimane di fondo una grande preoccupazione che la giustizia ha bisogno di riforme strutturali molto impegnative, e in qualche modo questo intervento invece dice semplicemente: se voi non riuscite a chiudere i processi entro un tot di tempo che noi abbiamo stabilito, quei processi vanno al macero. Bisogna rinforzare le risorse della giustizia per fare in modo che i processi si facciano, non che si dice è decorso il tempo quindi il processo non si fa più. E il testo come modificato si applica anche ai processi in corso. Questa è una norma molto ma molto problematica, perché in realtà porterà al macero processi di grandissima rilevanza. Le faccio un esempio, quello Parmalat, dove ci sono una miriade di parti civili che non vedranno soddisfatte le loro ragioni. Quindi non ci sarà una giustizia più veloce? Noi abbiamo a cuore il fatto che i cittadini abbiano una giustizia veloce, ma abbiamo a cuore che i processi siano fatti. Dire che la giustizia è più veloce perché i processi non si fanno non credo che sia una soluzione positiva. E dal processo breve alle parole pronunciate ieri da Berlusconi era dedicato il nostro sondaggio di oggi. L'attacco di Berlusconi ai magistrati, definiti un plotone di esecuzione, almeno quelli dei processi che lo riguardano, non viene approvato dai nostri ascoltatori, che nel sondaggio di oggi bocciano questa linea aggressiva del Premier. Il 76% di voi si dice contrario a questa frase pronunciata nel giorno in cui il Senato dice sì al disegno di legge sul processo breve. La frase è di Berlusconi, ma c'è chi nel suo entourage ne rivendica la paternità. È il caso dell'onorevole Giorgio Stracquadagno. È una frase della quale rivendico il copyright, le dirò. Io non so se l'ho suggerita, io l'ho scritta sul Predellino, il quotidiano online che dirigo. L'altro giorno, nel Tribunale di Milano, la difesa di Berlusconi in uno dei processi ha chiesto l'applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale. Ebbene, il Tribunale lo ha rifiutato, è un fatto inaudito. Questo lei lo chiama applicazione della giustizia o plotone di esecuzione? Bianconero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E dunque, sul fronte politico i temi in primo piano sono la giustizia, ma anche le regionali. Di questi due temi presumibilmente si parlerà durante il pranzo di lavoro previsto oggi tra il Premier Berlusconi e il Presidente della Camera Fini. In diretta da Roma, Andrea Viali. Andrea. Si è narita dunque una nuova colazione di lavoro fra Berlusconi e Fini, un'abitudine che è ripresa la scorsa settimana dopo un periodo di incomprensioni che ora i due fondatori del Popolo delle Libertà stanno cercando di superare proprio con questi incontri settimanali. Il Premier non è ancora arrivato qui a Montecitorio, dove con Fini parlerà, come dicevi, probabilmente di elezioni regionali. Ieri, lo ricordiamo, l'ufficio di presidenza del PDL si è riunito ma non è riuscito a sciogliere il nodo delle candidature in Puglia, ma anche in altre regioni come la Basilicata, l'Umbria, le Marche e la Toscana. Circolano comunque dei nomi come quello del giornalista del TG1 Romita per la Puglia. Altro tema di cui Fini e Berlusconi potrebbero poi discutere, oltre a quello della giustizia, è quello dei rapporti con l'UDC, sempre relativamente alle elezioni regionali, perché come sappiamo il partito di Casini ha deciso di allearsi con la maggioranza in alcune regioni e con l'opposizione in altre, una scelta che a molti non è piaciuta nel Popolo delle Libertà. Ecco, vedremo a questo punto se e cosa decideranno a questo proposito Fini e Berlusconi per quanto riguarda i rapporti con l'UDC, da Montecitorio è tutto, Anna Rita. Grazie Andrea, buone notizie in tema di salute, in arrivo un farmaco che si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di progressione della disabilità nella sclerosi multipla e che a differenza delle attuali terapie somministrate per via intramuscolare o per infusione potrà essere assunto per via orale. Lo dimostrano due studi pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine. Parliamo di cinema adesso, un film privo di retorica che non parlasse di buoni e cattivi ma cercasse di essere realistico, vero e rispettoso. Così Giorgio Diritti parla dell'Uomo che verrà, il film sulla strage di Marzabotto che esce domani. Sentiamo Diritti al microfono di Marta Cagnola. Ma l'idea c'è ed è un'idea storica, molto semplicemente a un certo punto Kesselring ha fatto delle scelte di lotta alle bande partigiane dando delle istruzioni in cui sottotraccia si diceva che comunque eventuali eccessi nei confronti delle azioni dei soldati sarebbero stati tollerati. Nell'ambito delle SS in particolare c'erano persone ancora molto convinte che la guerra si potesse vincere e questi hanno effettuato le cose più disastrose. Non a caso, dopo le vicende di Marzabotto, eccetera, è da ricordare che si è modificato l'atteggiamento nei confronti di diciamo, questo sterminio che era avvenuto di civili, perché Mussolini direttamente ha protestato facendo presente che azioni di quel tipo avrebbero portato comunque inevitabilmente tutta la popolazione ad odiare i tedeschi e quindi a una sconfitta certa. La buca della parte di Benz. È la storia che le frega la guerra. Chi se ne frega da storia chi la fa? Non ho raccontato tutto, devi fare delle scelte, quindi qualcosa rimane indietro. Un po' di preoccupazione c'è, ma spero che nella sensazione generale la dimensione emotiva vinca. Io ho combattuto, tra virgolette, una battaglia pacifica, cercando di far sì che la storia di tutte queste persone che hanno attraversato quella vicenda fosse a testimonianza per il futuro, perché vicende simili non accadano più. Nella seconda parte parleremo di sport, ne parliamo anche adesso perché c'è il conto alla rovescia verso il derby di Milano di domenica sera, decisivo nella corsa a scudetto. Nell'Inter fuori per infortunio Muntari, Mourinho punta a recuperare almeno uno tra Thiago Motta e Stankovic. In casa Milan, Alessandro Nesta ha saltato l'allenamento di stamattina, sempre più improbabile quindi il recupero del difensore per la sfida a scudetto. Intanto l'altro rossonero Gattuso inquadra così la stracittadina. Il nostro modo di giocare è cambiato, adesso la squadra è più convinta, c'ha tanti meriti il nostro allenatore, stiamo lavorando bene, arriviamo bene, però sei meglio di me che il derby è sempre una partita strana, una partita a sé e bisogna giocarla, come dire, con tanta attenzione. Ma io penso che l'emblema sono due, Abate e Antonini con la loro freschezza, con la loro gioventù hanno portato un'area diversa nello spogliatoio, anche dentro il campo, e secondo me è questa. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato della tentata strage a Roma nella caserma dei Vigili del Fuoco del Tuscolano. Un dipendente ha ferito 10 persone, una vicenda ancora tutta da chiarire. Abbiamo parlato anche di Napolitano che si trova a Reggio Calabria, questa mattina vertice in prefettura sulla lotta alla criminalità. Il presidente sta parlando proprio in questo momento agli studenti. E adesso, come detto, parliamo di economia, del bollettino della BCE che è stato diffuso questa mattina e che conferma l'allarme occupazione. Nel 2010 crescita moderata. La Banca Centrale Europea è prudente sul futuro a breve termine dell'economia nella zona euro. Dopo il crollo della produzione tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, le autorità monetarie confermano che la ripresa sta mettendo radici, ma avvertono che sarà accidentata. Ricordano in particolare che sarà lungo il risanamento dei bilanci nelle imprese e nelle famiglie dopo lo scoppio della bolla speculativa nel 2007. Le speranze sono riposte nei paesi emergenti e nelle esportazioni verso la Cina o il Brasile. Dal bollettino mensile pubblicato oggi, che mette l'accento su un possibile aumento della disoccupazione, emerge che una stretta ai tassi di interesse non è vicina. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Due mesi di lotta passati sul tetto del proprio posto di lavoro, alla fine i precari dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, hanno vinto. La scorsa notte è stato siglato un accordo che prevede il rinnovo dei contratti a tempo determinato. Finisce così una protesta durata 57 giorni. Molti lavoratori continuano però a protestare. Uno dei 16 operai della Delivery Email, saliti due giorni fa sul tetto del capannone della Fiat di Termini Imerese, questa mattina si è sentito male. Sul tetto, per cercare di aiutarlo, sono saliti i segretari territoriali della FIOM, Roberto Mastro Simone, e quello della UILM, Vincenzo Comella. I due sindacalisti hanno parlato di una situazione drammatica. Il segretario regionale della FIOM, Mastro Simone, al microfono di Adriana Fracchia. In questo momento proprio c'è il numero speciale dei pompieri che lo sta mettendo in una vertica e lo stanno imbracando e lo stanno scendendo perché siamo a 25 metri di altezza e naturalmente dalla scaletta non lo possono scendere, lo stanno scendendo per poi portarlo in ospedale. Non si sa che cosa hanno. No, il lavoratore accusa, è rimasto bloccato per la schiena, ma nello stesso tempo ha avuto un dolore al petto e questo naturalmente fa preoccupare, lo stanno portando in ospedale per questo motivo. Qua io sono pure qua sopra, siamo a 25 metri, c'è un freddo cane, poi insomma loro da tre giorni sono qui con l'attenzione della fine del lavoro per venerdì, insomma sono tutte condizioni inaccettabili. Per quanto riguarda l'avvertenza, da che punto è? Ma noi vogliamo subito che si intervenga, cioè noi chiediamo alla politica di fare pressione sulla Fiat per bloccare questi licenziamenti, insomma. Qui la Fiat è responsabile di tutto quello che sta accadendo e un governo autorevole non può permettere che la Fiat faccia quello che voglia. Sono un'azienda di 18 operai che fanno la pulizia dei cassonetti, li fanno da 25 anni questi lavori, sono stati sempre qui con noi, un'azienda di servizio. La Fiat il 31 gennaio gli toglie l'appalto e li butta in mezzo alla strada dopo 25 anni. Se la Fiat ha annunciato che vuole andare via, quando va via naturalmente interrompe il rapporto con questi lavoratori, ma fino a quando la Fiat è qui che produce la Lancia Y, noi riteniamo giusto che continui a rinnovare l'appalto a questi lavoratori. Ancora economia ma dall'estero, ottimismo del presidente americano Barack Obama che vede prospettive economiche migliori per il 2010 pur ammettendo errori nel suo primo anno di presidenza. Oggi Obama terrà un discorso sulla riforma della finanza ed è atteso oggi anche un discorso di Hillary Clinton in cui presenterà nuove forti misure per sostenere chi lotta per la democrazia sul web. Vi ricordo sui fatti americani l'appuntamento con Mario Platero con America 24 alle 13:45. E all'estero restiamo, ci spostiamo però ad Haiti, dove il movimento degli sfollati e la densità della popolazione dei campi di fortuna crescono il rischio di propagazione di infezioni. Lo afferma l'ONU nel suo ultimo rapporto. Sentiamo. I miracoli accadono ancora ad Haiti. A 9 giorni dal sisma hanno il volto di 3 bambini, uno di 5 anni, una di 5 mesi e l'ultima addirittura di appena 15 giorni. Sono loro gli ultimi estratti vivi dalle macerie. Non ci sono più speranze invece per i 2 italiani dispersi, la funzionaria dell'ONU Cecilia Corneo e Antonio Sperduto che lavorava in un supermercato. Alla paura per nuove scosse, l'ultima è stata proprio ieri, si aggiunge, dice l'ONU, il rischio di propagazione di malattie e il timore timore che la stagione delle piogge ad aprile diventi un serio problema per gli sfollati. Sul fronte degli aiuti la situazione va migliorando. Circa 150 aerei atterrano quotidianamente a Port-au-Prince. A rendere difficili le cose è l'assenza di un interlocutore locale, ha detto questa mattina dall'Aquila Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, che partirà questa sera per Haiti, al quale compete il coordinamento di tutti gli aiuti italiani, come a lui stesso spiegato, chiudendo di fatto la polemica con il presidente della Lombardia, Formigoni, dopo l'iniziativa di quest'ultimo di organizzare voli umanitari per Haiti senza coordinamento. Valentina Furlanetto, GR24, Sole 24 Ore. Hi, this is Samuel Dalembert with an important message from UNICEF. E anche il mondo dello sport si mobilita. Quella che sentite la voce di Samuel D'Alembert, campione del basket NBA con la maglia di Philadelphia, è nato ad Haiti, scelto dall'UNICEF come testimonial della propria campagna di raccolta fondi. E un'altra stella dell'NBA, Shaquille O'Neal, ha invitato i grandi campioni dei canestri americani a prendere parte alla gara delle schiacciate prevista per l'All-Star Game di Dallas del 14 febbraio, sempre per raccogliere aiuti per le vittime del sisma. E noi torniamo in Italia, torniamo per la precisione a Reggio Calabria. Nella prima parte del nostro GR ci siamo collegati con Reggio perché il presidente Napolitano si trova in visita, come dicevamo prima, sta parlando agli studenti. Cosa ha detto Napolitano? Come ci anticipava Filippo Veltri, ha parlato di Losarno, ha detto avremmo dovuto prevenire quanto accaduto, e in generale sull'immigrazione ha detto che servono ordine e legalità. Ma per la lotta alla criminalità Napolitano ha anche garantito che quello che sta facendo il governo va esattamente nella direzione giusta. Ci spostiamo a Roma, oggi conferenza stampa del ministro Brunetta sulle assenze dei pubblici dipendenti. Non una parola sulla candidatura come primo cittadino della sua Venezia, né sulle polemiche di chi vede l'incarico incompatibile con quello di ministro. Renato Brunetta convoca invece giornalisti al Ministero della Pubblica Amministrazione a Palazzo Vidoni per diffondere i nuovi dati del monitoraggio delle assenze dei dipendenti pubblici dopo la riforma. La notizia è che a dicembre, dopo l'annuncio e la firma del decreto che ha alzato le fasce di reperibilità a 7 ore, i giorni di assenza per malattia sono tornati ai livelli di 2 anni fa, quando si era registrata una riduzione dell'assenteismo del 37%. I fannulloni erano aumentati tra agosto e ottobre per la riduzione delle fasce a 4 ore giornaliere, anche se per il ministro la ragione è sempre la stessa. Il vero punto centrale è la motivazione dei dipendenti, il ruolo dei dirigenti nel motivare i dipendenti e il controllo da parte dei dirigenti nei confronti dei dipendenti, perché vede, i fannulloni esistono laddove ci sono cattivi dirigenti. Sarà interessante vedere se i dati di gennaio miglioreranno, dice Brunetta, che parla del fallimento di tutti nei casi di arresti per assenteismo, come nel recente caso di Perugia. Della legge, il fallimento dei ministri, il fallimento dei dirigenti, il fallimento dei sindacati, il fallimento di tutti. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del derby di Milano di domenica prossima. Adesso torniamo allo sport, ma per parlare dell'aspetto sicurezza. Curva dell'Olimpico di Torino chiusa per la sfida di sabato sera contro la Roma. Forti restrizioni per le trasferte di Coppa Italia contro l'Inter e la partita di campionato contro la Lazio. Giro di vite dell'Osservatorio del Viminale sulla tifoseria della Juventus dopo i cori antirazzisti, anti-Balotelli. Dario Ricci ha intervistato il direttore generale della Federcalcio, Antonello Valentini. Abbiamo sottolineato come federazione e come Lega Nazionale Professionisti il contributo, lo sforzo, l'impegno della Juventus, che è una vittima delle sue frange di tifosi che hanno creato problemi in 7 gare e sono costati anche in termini economici di multe, di ammende alla società molte decine di migliaia di euro. Da questo punto di vista quindi Viminale, Federazione e Lega sono assolutamente al fianco della Juventus, che ha dimostrato già di avere una serie di comportamenti positivi e virtuosi per isolare le frange di tifosi razzisti, e su questa strada vogliamo andare avanti. Resta l'amarezza di veder vuota una curva intitolata a un campione di stile e di correttezza come Gaetano Scirea. Io spero che da questo episodio si possa, come dire, trarre anche un insegnamento in questo senso. Gaetano Scirea certo non merita in nessun modo di essere associato a fenomeni di violenza, di polemiche, di qualsiasi tipo di incidenti o di maleducazione soltanto, essendo stato un galantuomo in campo e fuori. È tutto per questa edizione, grazie in regia Fabio Cantadori. Vi lascio prima in compagnia di Daniele Biacchessi con Italia in Controluce, poi in compagnia di Mario Platero con America 24. Il GR torna alle 14. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.